Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Una mattina d'inverno mi alzai presto, feci colazione come al solito e andai verso la fermata. Era buio, ancora notte chiusa. Non mi faceva paura, eravamo sempre gli stessi passeggeri che andavano a lavorare, gente che conoscevo. Però quel giorno non c'era nessuno, l'autobus era vuoto. Hola, sono Julieta Kelsian, ho 35 anni, vivo a Montevideo, sono uruguayana e lavoro all'università, alla facoltà di comunicazione sociale. Mia famiglia è anche piccola, è Nico e Manuela di 5 anni. Questa puntata è dedicata, non è da ascoltare, è solo dedicata a tutti quelli che hanno un'età compresa tra i 30 e i 40 anni. Possono ascoltare a tutti gli altri, prima dei 30 e dopo i 40. Però la puntata di oggi, proprio perché è stata scritta, è partita, perdonatemi, da uno scritto, da un racconto di Julieta, che è una ragazza di 35 anni, come avete sentito, che vive a Montevideo e che è un pochettino... noi della redazione conosciamo perché abbiamo già avuto a che fare con lei, proprio grazie a lei la puntata è dedicata a questa generazione, che poi è la mia, è quella di Tiziano Bonini, è quella di Paolino Corleoni, non è quella di Margherita Hina, non ancora, perché è solo una ragazzina rispetto ai personaggi che invece riempiono questa redazione. Però questo racconto di Julieta e il fatto che lei, a un oceano di distanza, abbia gli stessi gusti, gli stessi riferimenti culturali, abbia le stesse cose, abbia a che fare con le stesse cose con cui abbiamo a che fare io, Tiziano, Paolino e tutti quelli della nostra generazione. La puntata di oggi è dedicata a tutti voi. 349-238-6666. Voi siete qui, @radio24.it, oppure... il profilo Facebook di questo programma, che è Voi Siete Qui, Radio 24. Tutti quelli che mi chiedono del live di stasera, ne parliamo dopo, adesso parliamo di questo invece. Io vorrei sapere quali sono i vostri riferimenti, per capire se sono stati anche i nostri, e se veramente esiste una sorta di meridiano generazionale che unisce in questo paese e anche fuori quelli che hanno tra i 30 e i 35 anni oggi, nel 2012. 349-238-6666. Arianna, ascoltavo i cosiddetti giovani cantautori italiani, anche se hanno più di 40 anni. Chi sono? Bersani, quella gente lì. I programmi al televisivi erano Bim Bum Bam e Doppio Slalom. Come dimenticare Doppio Slalom con quelle, come si chiamano? Gli esagoni, no? E poi ancora, poi mi ricordo la caduta del muro di Berlino, gli omicidi di mafia e le continue crisi di governo al TG, le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. E poi ancora Fede, mi porto dentro soprattutto la musica grunge di Seattle, mi ricordo il concerto dei Nirvana a Milano. Marco, mi ha formato il rugby, mi hanno accompagnato i Queen, folgorato a 12 anni da Bohemian Rhapsody, mi ha colpito il rapimento di Moro, sono stato bocciato due volte il concerto di Roger Waters a Roma nel 2002. Insomma, 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it, si parla di questa generazione che oggi c'ha tra i 30 e i 40 anni. Se avete voglia di partecipare, di fare sapere come siete cresciuti, che cosa guardavate, quali sono i libri che avete letto e tutto quello che aveva a che fare con voi. Esiste un profilo Facebook che è Voi Siete Qui Radio 24. Se avete voglia di postare foto che abbiano a che fare con quelle immagini musicali, con quelle immagini di telefilm e di film, andateci sopra e caricatelo. Voi siete qui, Radio 24. Adesso però lo spazio è tutto per la storia di Julieta. Torno spesso su questa idea. Ringrazio le mille ore che ho passato su un autobus per la possibilità che mi hanno dato di immaginare. Quando ero bambina, la mia scuola non era la scuola del quartiere. Questo era il primo fatto che mi rendeva diversa dagli amici della mia via. Loro andavano insieme a scuola. Io invece mangiavo a pranzo un'ora e mezza prima di tutti e alla sera non arrivavo mai in tempo per i cartoni animati. La scuola era nel centro della città e io vivevo in un quartiere al confine. Quasi 3 ore passate sull'autobus e la noia mi spingeva al finestrino a guardare una e mille volte lo stesso percorso. Io in Montevideo ho nato in un quartiere di periferia che si chiama Il Cerro, Cerro vuol dire collina. I miei genitori hanno scelto di inviarmi a una scuola che era al centro della città, perché al quartiere non c'erano scuole adatte. Quando ho avuto penso di 10 anni, già viaggiavo da sola, perciò io passavo lunghi tragetti sull'autobus, quindi lì lasciavo volare l'immaginazione. Questo faceva sì che l'ora e mezza sull'autobus all'inizio fosse un tempo vuoto, morto, finché ho cominciato ad approfittare di quel tempo e a renderlo utile. Prendevo sempre i posti accanto al finestrino e quando l'autobus partiva, lì cominciava anche il mio viaggio. Situazioni immaginarie, personaggi, dialoghi completamente inventati. Lì ho detto di sì a non so quanti bei ragazzi che mi hanno invitato a ballare, ho chiesto di essere la loro fidanzata. Ho comprato quel bel paio di jeans stracciati che tanto desideravo ma che erano costosissimi. Ho finalmente contestato in modo intelligente e ad alta voce la domanda che l'insegnante mi aveva fatto in classe, a cui io, per insicurezza, non avevo risposto, anche se la risposta la conoscevo. Tutto accadeva lì, tra la mia testa e il vetro del finestrino. Da piccolo ho viaggiato da sola, i miei mi hanno portato in macchina a scuola finché ho avuto 10 anni. Questo mi ha reso una ragazzina indipendente e matura, forse prima del dovuto. Quando ho finito la scuola elementare e sono passata alla scuola media, ho dovuto anche cambiare orario. La secondaria era al mattino, quindi 6 della mattina in piedi. Facevo colazione e partivo da sola alla fermata dell'autobus. Il cambio d'orario fu uno dei cambiamenti che mi hanno colpito più chiaramente nella mia maturazione. Una mattina d'inverno mi alzai presto, feci colazione, come al solito, e andai verso la fermata. Era buio, ancora notte chiusa, ma non mi faceva paura. Eravamo sempre gli stessi passeggeri che andavano a lavorare, gente che conoscevo, però quel giorno non c'era nessuno. L'autobus era completamente vuoto. Ci salgo, prendo il mio finestrino e incomincio il viaggio. A metà del tragitto il sole ancora non usciva, come succedeva di solito, e mi sembrava strano. Più strano fu arrivare alla mia fermata e vedere che era ancora notte nel centro della città. Montevideo è una città tranquilla, ma il centro delle città sono uguali in tutto il mondo. Diciamo che non è il posto più adatto per una ragazzina di 12 anni, in uniforme e zaino. Sentii paura, guardai intorno, era buio. La scuola però era accanto al distaccamento centrale dei pompieri. Andai subito a parlare con i pompieri. «Signor, signor, la scuola è chiusa e io non abito qui, sono del Sierro, sono da sola e ho paura». Niente. «Signor, signor». Niente, ma timidamente mi fece un gesto, mi chiedeva di entrare. Avete presente questi vigili in guardia che non possono nemmeno dire una parola quando sono in servizio? E quelli oltretutto erano anni di dittatura militare. Insomma, senza capire molto cosa accadesse, entrai nel quartier generale. Penso che per la mia altezza tutto mi sembrava enorme, tutto era grandissimo. Una edificazione che non è molto comune qui a Montevideo, sembra un castello. C'erano delle passerelle piccole e molte. C'era un settore centrale dove stavano i camioni e tutte queste cose, questi artefatti che usano i pompieri. Quello che ricordo di più era il tamagno. Tutto era enorme. Mi ricevette il capo e mi chiese cosa facessi da sola nella metà della notte in centro. Fu solo lì che compresi che la sveglia aveva suonato ad un'ora sbagliata. Ed io avevo fatto la mia solita routine senza mai guardare l'orologio. I pompieri mi adottarono per un paio di ore. Mi fecero fare un tour per l'interno dell'edificio, un castello antico con anditi segreti. Mi hanno permesso di giocare sui camion rossi e poi mi hanno offerto una buonissima colazione. Caffè latte con croissant in una gigante sala da pranzo con tavole lunghe e tazze colorate. Quando aprì la scuola, il generale mi portò dalla maestra. Lì chiamarono i miei genitori che si erano appena alzati e non avevano sentito uscire a metà della notte. Alcune settimane fa ho raccontato a Manuela, che ha 5 anni, questa storia per farla dormire, e le ho promesso che alla prossima giornata del patrimonio la porterò a conoscere l'interno del Castello dei Pompieri. Io Giulietta la conosco. Cioè, non l'ho mai incontrata, ma ormai non serve quasi più incontrare una persona per conoscerla, no? Sì, e lo so che molti di voi saranno pronti a dire che questa non è una cosa buona, che le persone viste di persona sono un'altra persona, ma tant'è, un po' la conosco. Lei ha iniziato a seguire i miei programmi 4 anni fa e da allora non mi molla più. Fortunatamente non è la sola a farlo, ma la differenza tra lei e molti altri affezionati è che lei non è italiana e soprattutto non vive in Italia. È uruguaiana e vive a Montevideo. Ha iniziato a scaricarsi i podcast di vecchie trasmissioni per rinfrescare l'italiano che aveva imparato e poi ha continuato a farlo. Con me e chi fa il programma, Julieta ha condiviso foto, video e racconti della sua vita. E quest'anno ci ha mandato questa storia, che è la storia di un percorso da scuola a casa, di una sveglia che suona in un orario sbagliato e soprattutto di immaginazione. Di come l'immaginazione ci permetta di fidanzarci con persone a cui nemmeno rivolgiamo la parola, di rispondere a domande anche se siamo timidi e facilmente imbarazzati e soprattutto ci permette di intrattenerci. Ci fa fare viaggi che non potremmo fare e che ci permettono di andare via da dove siamo, anche solo per qualche minuto. Poi quella stessa immaginazione le permette di invertire il giorno con la notte, di darsi delle spiegazioni al motivo per cui il cielo è così buio, l'autobus così deserto e il sole non ne vuole sapere di sorgere. È colpa anche un po' della sua immaginazione, insomma, se si trova di notte a chiedere ospitalità dei vigili del fuoco che la coccolano e la accudiscono fino all'alba. Ma non è solo questo il motivo per cui oggi ho deciso di raccontare la storia di Julieta. Il motivo è soprattutto un altro e ha a che fare con la lontananza e con la vicinanza. Il motivo è che questa sera c'è una festa a cui parteciperanno un bel po' di persone, un bel po' delle persone che abitualmente sono a casa, in macchina, al lavoro o in qualsiasi posto ad ascoltarsi il programma. Queste persone partiranno da casa loro, prenderanno auto, treni, metropolitane o biciclette e verranno a risentire i pezzi salienti di questa annata di programma e verosimilmente Julieta invece non lo farà, perché è a migliaia di chilometri da qui. E so che ci sono un sacco di persone che anche dall'estero ascoltano questa radio e questo programma, però Julieta, da quando ci siamo scambiati la prima mail in cui mi raccontava chi era e mi spiegava perché le piaceva il programma, per me ha sempre rappresentato una sorta di specchio generazionale. Una persona che ha grosso modo la mia età, ma che è cresciuta lontanissima da me, con usi e costumi occidentali ma che appartengono ad un altro continente, a un'altra cultura, che però ascoltava praticamente la mia stessa musica, aveva i miei gusti, vedeva i film che piacevano a me e usava i miei riferimenti. Una persona che non conosco, che era distante, ma con cui ci si riconosceva. E non c'entra solo la globalizzazione, o meglio, c'entra sì, ma solo in parte, perché non è detto che se trovo tutto su internet, allora a me piacciono le stesse cose che piacciono a qualcun altro. Non è che devo per forza vedere quel video su YouTube che hanno cliccato in 20 milioni di persone. Con lei invece mi sono accorto che esiste una sorta di meridiano generazionale che unisce le persone che hanno attorno ai 35 anni, che sono cresciuti senza troppi tormenti e che hanno avuto la possibilità di scegliere nella loro vita. Persone che si sono trovate in una condizione peggiore di quella dei propri genitori, ma con una consapevolezza maggiore, cosa che non è sempre stata un bene. Ecco perché questa puntata è dedicata a lei e a tutti quelli della mia generazione, perché a me è servito guardarmi in uno specchio profondo quanto tutto l'Oceano Atlantico e chissà che non possa servire anche a quelli che ascoltano la sua storia e tra poco ascolteranno la sua voce. A Julieta quindi devo un favore, quello di avermi fatto vedere che non è vero che siamo tutti nella stessa barca, ma nuotiamo tutti nello stesso oceano. Generazioni di 30-40enni, Giorgia scrive, ho quasi 35 anni, ai tempi dell'università suonavo il basso in un gruppo, i nostri riferimenti erano Dire Straits, U2, Cure e Police. Se andava in vacanza nei rifugi di montagna, raggiungibili solo a piedi, con le provviste nello zaino. 80024 0024 per chiamare in diretta e raccontare quali sono i vostri riferimenti culturali, oppure 349 238 6666. E tutto nasce dal fatto che un paio d'anni fa ho conosciuto al telefono e via mail una ragazza che vive a Montevideo. Pronto, Julieta? Ciao, come state? Io sto bene, tu come stai? Noi tutti bene, direi. Scusami? Dicevo, noi tutti stiamo bene, spero che sia anche tu, giusto? Sì, sì, sì, certo, con un po' di freddo, ma sono bene. Perché, allora... Col caldo del tuo racconto. Julieta, no, del tuo racconto direi, quindi il merito è tuo. Parlo un po' piano perché, come va il tuo italiano? Più o meno, è peggio di la prima volta che ci abbiamo parlato. Perché era più fresco all'epoca. Senti, adesso voi vi trovate esattamente al contrario nostro, cioè da voi sta finendo l'estate, giusto? No, è già quasi l'inverno qua. Perché non sono proprio ribaltate che il 21 di giugno diventa autunno, no? Sì, però sai che il tempo, diciamo meteorologicamente abbiamo perso le stagioni di mezzo, come si chiama? Le mezze stagioni, sì, quasi sì. Che non esistono qua. E due settimane o tre fa era un po' caldo, 20 gradi più o meno, e adesso, ieri abbiamo preso, acceso il cammino al legno, così si chiama cammino? Sì, sì, il cammino. Perché, ma scusa, vivi in un appartamento o in una casa tu, Giulietta? Beh, è la casa, è un appartamento, ma è, come si dice, quella di una casa al... Come si dice in spagnolo? Sale con la scala. Casa de altos vuol dire di su. Te l'ho fatto dire in spagnolo come se potessi tradurre e sono rimasto fregato. Comunque, vabbè, hai il cammino. Senti, Giulietta, torniamo al tuo racconto un attimo. Beh, innanzitutto la prima domanda, sì, prima... la prima domanda è, scusami, chiaramente tu non ci sarai questa sera live, mi sembra evidente. No. Non ci sarai, no, però, no, però lo puoi seguire sul sito. Di Radio 24, lo sai, facciamo uno streaming dal vivo, video anche, quindi alle nostre 21, che sono le tue 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, sì, no, alle 15, alle 3 del pomeriggio, alle... sì. Ma no ragazzi, che alle 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, alle 3 del pomeriggio. Ok, ci sia. Alle 9 di sera nostra, invece te lo puoi seguire. Però torniamo al tuo racconto, perché la prima cosa che mi viene da chiederti è: ma quando tu sei cresciuta c'era ancora la dittatura a Montevideo? No, ho sbagliato moltissimo le date, anzi ho sbagliato la mia età, non so. Mi sembra che mi sono fermata psicologicamente ai 35, ma io volevo dire che sono nata nel 75. Adesso ok, siamo proprio coetanei. Il prossimo mese 37. 37. Però se che non voglio crescere. non è un problema. Quindi però quello che intendevi dire nel racconto è che c'era ancora, sì, come dire, odore di dittatura. Ufficialmente, certo, ufficialmente era la democrazia è arrivata nell'85 qui a Uruguay. Ah, ok. Però ci sono state un paio di anni dove c'era la paura tra la gente, un po', come si dice, il controllo militare c'era, sì, ancora nei abiti, nei comportamenti. Ho capito. Senti, invece, quindi a questo proposito, visto che grazie al tuo racconto e grazie a te sto cercando di parlare di riferimenti culturali per la nostra generazione, no? La mia e la tua. Sì. Tu con che riferimenti sei cresciuta? Cosa guardavi in televisione? Che musica ascoltavi tra i 15, 20, 30 anni? Che film ti ricordi? Noi abbiamo aperto prima con Ritorno al Futuro, che è un film dell'85, hai presente? Certamente, questa prima quando ho letto, penso che questa mattina ho letto sul profilo Facebook, sì, il tema, sì, ho pensato Back to the Future. Ritorno al Futuro. Sì. Anche per letteratura ci sono tantissimi libri, ma ci sono tanti autori latinoamericani che forse voi non conosciamo meno. Sì. E invece dimmi un brano musicale che ti viene in mente proprio, che col quale ti sei formata in qualche modo. Beh, non lo so, alla mia scuola c'erano i due bandi, non so se si dice, quelli che seguivano i Beatles, gruppi, e quelli che seguivano i Rolling Stone. Sì, quelli che seguivano i Rolling Stone, ok. Certo, cioè questo era, ma questo non era proprio generazionale, penso che fosse eredato dai, sì, dai era più quasi, era più quasi, esatto, veniva dai genitori, era più una questione di gusto. Sì. Giulietta, senti, io... Io ero dai Beatles. Tu eri dei Beatles, ok. Senti, io però invece ti ringrazio ancora per aver partecipato anche quest'anno al programma. L'anno scorso abbiamo fatto una telefonata veloce. Un abbraccio a ognuno che partecipa oggi stasera al live. Va bene, in qualche modo faremo finta che tu sia con noi questa sera. Sì, sarò sicuro, siete sicuri. Grazie ancora, ciao Giulietta, buona giornata. Ciao, grazie. Mi sconvolge la vita. Ma che cosa? Tu non riesco a smettere di pensare a te. Cioè, non a te in quanto persona, ma in quanto corpo, in quanto collo, spalle, braccia, unghie e tutto il resto. E poi continuo a vedere quel tuo sguardo. Che sguardo? Quello di quando eravamo in cucina e ci siamo baciati a morte. Sto con un paziente e vedo le tue cosce. Sto andando al lavoro e vorrei baciarti. Questi disturbi non dovevano passare con lo sciogliersi dei ghiacci. Beh, di solito è così. Certo. Guarda che non credo soltanto a te, non sono più tranquilla nemmeno nel mio letto. Hai invaso tutti i miei sogni. Io devo innanzitutto delle scuse a tutti quelli che si sono accorti del mio errore di qualche giorno fa, quando dissi che Un medico fra gli orsi, che è il pezzo, uno dei diciamo uno dei telefilm della nostra generazione, da cui abbiamo tratto un pezzo che avete appena sentito, era girato in Islanda. Non è girato in Islanda, è girato in Alaska, era ambientato in Alaska, poi non so dove fosse girato. E però questo, a differenza di altri, perché molti mi scrivono anche ad esempio Magnum P.I., io sono cresciuto con Magnum P.I., però Magnum P.I. apparteneva anche a un'altra generazione, tipo mio padre guardava Magnum P.I., Un medico fra gli orsi un po' meno, era una roba che apparteneva un po' più a noi, ripeto, 30-40. 349-238-6666, Stefano mi scrive, e leggo lui per tutti: grande performance sulle stagioni caccia. Effettivamente ho fatto confusione con il fatto che se qua comincia l'estate, là comincia l'inverno. E ringrazio tutti quelli che però me l'hanno scritto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo 8 persone ci hanno tenuto a farmi sapere che sono un imbecille che non sa che se di qua comincia l'estate, di là non comincia l'autunno, ma comincia l'inverno. Molto bene. Questa sera vi aspetto tutti qua live alle 21. Spero di non compiere troppi errori questa sera. E spero comunque che ci sia qualcuno che si alzi in piedi e mi dica: sei un imbecille, si dice così e non così. Mi è venuto in mente, proprio mentre guardavo la foto di Giulietta, che una delle cose più belle che accadranno questa sera è il montaggio che Paolino Corleoni ha fatto di musica e fotografie, facendo una cosa simile a quella che avevamo fatto l'anno scorso, che però era diverso, perché l'anno scorso vi chiedevo una foto del vostro personale Io Sono Qui, quest'anno vi ho chiesto una foto che fosse un ritratto vostro. E quei tre momenti di foto che vanno sulla musica sono, secondo me, una delle cose più belle di questa sera, insieme chiaramente ai vostri racconti che avete scelto voi, che abbiamo selezionato grazie alla vostra votazione, che saranno 10, il tutto per una durata non più lunga di 1 ora e 20. Abbiamo già detto 1 ora e 10, ci stiamo già allungando. La serata comincia alle 21, ci saranno magari 5-10 minuti di ritardo, lo dico per quelli che non saranno qui e che guarderanno in streaming live dal sito di Radio 24. Manco per l'Angelus del Papa c'è il live streaming, c'è solo la diretta su Rai 1. Un live streaming multicamera, addirittura 3 camere, ma chi la fa la regia però? La fa Claudio? Claudio fa tutto lui. Stasera conoscerete anche Claudio. 349-238-6666. Sono cresciuto da Kenshiro, Goldrake e Daitan 3. Marco. E poi ancora, la mia generazione. Per la mia generazione è memorabile lo scudetto dell'Hellas Verona 84-85. Più della caduta del muro. Dario, forse un po' troppo. Ghost and Goblin sul Commodore 16. Esisteva il Commodore 16. No, esisteva il Commodore 21. No, Vic 20, ok. E poi il Commodore Ritorno al Futuro, la BMX e il Commodore 64. A proposito del Commodore 64, se andate su internet, non è difficile, lo trovate, c'è il manuale di istruzioni per imparare ad usarlo. L'ha scaricato Margherita Ina tra le 15 cose che ha fatto nelle ultime 30 minuti, tra l'altro, non è la giornata. E c'è, l'introduzione è quasi commovente, perché dice così: siete ora l'orgoglioso proprietario del Commodore 64, per cui vi facciamo le nostre più vive congratulazioni per aver acquistato uno dei migliori computer al mondo. Oh, ma anche meno! Cioè, come dire, aprire il programma ogni giorno e dire: complimenti, siete sintonizzati sulla migliore radio italiana, sul miglior programma che potevate ascoltarlo, vi facciamo le congratulazioni. Bonini, non ci credo che le altre radio dicono complimenti per essere sintonizzati. Va bene, per fortuna che qui a Radio 24 non facciamo così. La Commodore è nota come la società del computer amico, ed essere amici significa fornire manuali di istruzioni facili da leggere. Innanzitutto, se dovete costruire dei grafici, avete a disposizione il costruttore di immagini più avanzato di tutta l'industria dei microcomputer. Già il termine microcomputer è una roba che non esiste più, se non per... non esiste, cioè... no, micro... cosa... sì, no, che prima erano grandi, certo, però il termine è proprio microcomputer. Abbiamo l'industria dei microcomputer che abbiamo chiamato grafici di animazione. Vi consentono di disegnare le vostre immagini in 4 colori diversi. Uy, andiamo forte! Esattamente come quelle che vedete nei videogiochi delle sale specializzate. Io ricordo ancora il Natale in cui i miei mi regalano il Commodore 64 e io passai poi il resto della mia vita a fare press play on tape, sperando che quel nastro maledetto girasse. Visto che qualcuno mi chiede quali erano i miei riferimenti erano veramente uguali ai vostri, per cui Ritorno al Futuro, che abbiamo sentito prima, La Storia Infinita, vi ricordate il cane con le orecchie pelate dal vento? E Un Medico fra gli Orsi, ne abbiamo già parlato. Press Play on Tape, i paninari contro i Dark, più o meno, anche se poi non si capiva mai chi vincevano. La bici da cross, la salta forse, se ve la ricordate. E poi si giocava a pallone con il Super Tele. In televisione c'era la pubblicità della Benetton, ma anche sui cartelloni, quelli per cui si parlava tanto di Oliverio Toscani. In TV però si guardava anche Colpo Grosso, chi aveva l'opportunità di stare in piedi fino a una certa ora. Mentre la musica, ragazzi, quella è forse uno dei momenti anche più malinconici della nostra epoca, che fortunatamente non abbiamo, o meglio, Tiziano Bonini e Paolino Corloni si sono opposti a mandarli in onda, ma c'erano dei pezzi dei Simple Minds, che io ricordo ancora, elettrici e finti come pochi, ma che hanno animato le mie vacanze estive. È arrivato il momento di chiudere. La storia di oggi era la storia di Julieta, parlava di generazioni. Quella di domani, invece, è una storia assoluta e parla di questa sera.